Friuli nel mondo, 67esima trasmissione dedicata agli emigrati. La Nestre Mari Lenghe. Tra le lingue che attraverso i secoli testimoniano fedelmente quanto Roma influì sulle genti che illuminò della sua civiltà è il friulano. E non per nulla il friulano è una lingua ladina, una lingua in cui la latinità conserva una cristallina trasparenza. Bello, sonoro, armonioso il friulano. Gli scrittori che lo usarono nelle loro opere di prosa e di poesia hanno dimostrato come esso si pieghi mirabilmente a rendere tutte le sfumature, anche le più sottili, dei sentimenti. L'odierna trasmissione vuole essere un'antologia e, come ogni antologia, ha scelto fior da fiore dal ricco e vario repertorio della letteratura di casa nostra. Abbiamo detto che il friulano deriva dalla lingua di Roma. Non possiamo iniziare, dunque, che con l'esaltazione di Aquileia, che di Roma fu la figlia più illustre, in un componimento dovuto alla penna di Enrico Frutti. Che tu rompi il lattiare di Aquilee, ferme i bus un momento, sotto il chiam che la guarzineare, sotto la man che semè nel formento, tal soreli e tal ombre dal nul, gli è una impronte di Rome, e la storie e la glorie del Nestri Friul. Barcarul che tu vens di Barbane, quant'alsune l'antic ciampanil, no tu sintis un glon di ciampane, ma un nevos che ti rive dal cil, e l'eterne per aule ti dis, un nevos che traviarse la storie e la glorie del Nestri Pais. Pellegrine de ultime uere, mari sante del Nestri soldà, che bessole tu entris la sere a preà sotto i pings del sagrà, scolte, scolte la iul rusignul, che ti puarte con tante dolcezze la chiarezze del Nestri Friul. Tal seren di une clare matine, ecco, e rid la marine la infonz, alzei voi, o giarnazzi e latine, su che blanche corone di Monz, sul Friul, e ten fede all'idee che non mur, alla grande memorie e alla glorie de Nestre Aquilee. Contadin, che tu rompis la tiare di Aquilee, ferme i bus un moment, sotto il chiam che la guarzineare, sotto la man che semè nel forment, tal soreli e tal ombre dal nur, è una impronte di Rome, e la storie e la glorie del Nestri Friul. Ed ora, sempre di Frug, un quadretto di patriarcale semplicità, in cui si specchia la serena vita quotidiana delle nostre famiglie contadine. Platade dai Giatui, sull'or de Maline, l'el regno de Sbestis, la cort di Catine, passant par di là, bisogna gli entra. D'indiaz sop la lobie e fasin la ruede, polez e dialinis e sgarfin temede, e il fianca gli esfur, nus salte da ur. Parmis de palade, un trob di cunins che crustin la iarbe, svoblitin in pins, disrazis che in rie tal riule van vie. Provaita tociale la cloce teceste, iodelu che il babio calalce la creste precis di un sultan, sul Grundalledam. Tontone la none di Adal sul Puyul, cui fruz di catine che mostrin il cul. Pognete testale la flore iuciale. Coloms e cisilis es volin pardu, becolin e cirin talumi tal su, e van a passon par ogni canton. Iessere, gli sbestis il liet si preparin, cumo la finissin che slache svatarin, cumo si quietin che i lache talpetin. Son bestis che rugnin, che vain, che sosedin, che scassi distirin, che slassi comedin, si becchin, si picchin e poi si cisichin. C'è sere, c'è aiar car slargi i polmons, odor di basili venca dai balcons. Al ven e nustente, odor di polente. Van su gli sghialinis, gliel'ore di cene, te cort in buride ven fur filumene, mostrant une fete e sberle, ie quete! Tra le prose friulane, il da profundis durant un funeral di Beppo Rupil costituisce un gioiellino a sé, ponendo in tutto rilievo, come fa, i termini tipici della parlata di Val Pesarina e la preghiera recitata da una vecchina che custodisce nella propria casa i bimbi del vicinato durante il funerale d'un compaesano. Recitando in latino, le storpiature sono infinite e una più gustosa dell'altra. Nel componimento è inserito un corot, ossia un antico canto funebre ricco di profonda poesia. Ciò, Tina, va sulla linda moda brava e tira denti che i panciz, che i saran sui az. Po fa sluplasie di metintun sot l'uculuta di che frutta i qui, ca sarà tutta bagnada. Da sposentala sun che il bredal, u la busa tan bombenta al miez, se no sa fa sintori iave. Su da brasmo fis, intant cula int e al funeral di Biatnart, nua disingunda profundi. Fait lusem de Santa Cruasmo. In nomine Patris, Figlio, Spirito, in San... Oh, con quale man l'ha fatto tupo? Con questa chi si fa la cruas? Na gi ha insegnato, Mari. Oh, brava, usimo. Tornin a di. In nomine Patris, Figlio, Spirito, in Santi, Amen. Bras, bras, i via sfatte del buon ben che stavolta. Tasmo, tasguina, u da sfoggi darai un cimi di peta cota sotto la bulita. Da profundis incolmavit te domine, domine soldi in borsa mea. Che ce fasi a che frutta qui dia su palnas? Sociata, netta gita cotulutove, nai creancia fa che srubas. Netta la tu sona, ca tu aspin udizi e ca tu sia spin valende dia. Impiantar la tarundente in borsa in purgazioni sme. Urcitat, sociat, mi fai spropi da nave. Tu tenti alluvia un lut, n'aveva paura con un signor su chiastea. Sine patate salvadias, domine, domine, che sei ostinevi. Gesù Maria, c'è odur, c'è pucciata. La su tempin di guardia ve bacedada, nencia si credes di venire una signora. Capo di te, prepuziatio d'este, e proprio lese tua, si ostinite domine, ostinite anima mea in verbo Deo, spurgavit anima mea sempre in domino. Eisa non tu, ciò Tina, ciala che pruta è qui, cada via insozzato in tor. Va togli la scova cere, la scova di Bedoi, e nete la bescleta. Su svelta, dato età ti sualavio. Ma c'è visa mangiato io che hai fiesta. Sono i fasoi a festa dita di una sera che su fasche sta srubas. Ma che sta puta a sa propri di cius di salmuediave. A custosa di mattina un steco di notte, sperati ostel in domino. Via daccia c'è plena che evade, sa la fate in toria. Da sta muovici con una sgiambuta, tutti in socia struta sa tu. Gesù Maria, ci hai mai fatta tinisu io. Ciò Tina, quarta campugia di cinisa, e netta che frutta. Su, bescleta! Coca, coca, coca, benedetta coca, sta ferma, cu che manuta! Tina, la tu vio, scasso c'è tattamè! mettiù cor ai cacabbia le buina cheve e c'è giambra di crima sì vai encia donge cumo oh anin in davanti cumo approfittai metto tiera il viat muar e noi componin una raganiccia tiera mota a partan bon tai chiamce tai prat ma non nota che il sagrat muart mia di cor l'usor la cartufola sei fasoi ai son encia luar sot la tiera ma quanca torna la primavera volunteire i torna for ma i nostri smuart mai pinga i torna a fas di dia in che sbrut mon n'encia si va in templa una gorna o se l'utoral si fa staron ma come i pluer scuda sottiera ai salta for fargliol di luz così i muart nostri alla pas vera saran nel premi dal cilme tu.